miei, bentrovati su Radio Pulse, la radio low cost. Io sono il DJ Grex e questi sono i Morfi. Good. Ciao, io sono Pac, collega di Grex. Troppe consonanti, lo so, è un po' complicato, ok. Devo scegliere un brano a seguire, io pensavo uno dei nostri motti, il famoso casalingo di Bugo. Benvenuti su Radio Prisma, il mio primo esperimento blog radiofonico, ispirata da quei roschi figuri di DJ Buck e DJ Grex di Radio Pazza. Vorrei cominciare subito con Che cosa sei, Alberto Radius. Salve a tutti, sono ancora DJ Mio per una nuova puntata qui su Radio Pazza. Sono stato chiamato a parlare di mostri. Quella che abbiamo sentito prima era The Spy dei Doors. Giugno 2008, esattamente un anno fa, nasceva Radio Pazza. Auguri ragazzi! Yeah! Wow! Sembro sempre moscio della voce, però porca miseria, ci sono pezzi che tirano fuori la bestia che è noi. La bestia che è in te. Devi sapere, caro amico mio, che la mia parte femminile è estremamente sviluppata. Beh, allora ti dovrei chiedere di stirarmi le camicie. Va bene, ci farò un pensierino.